Ci mancano appena un paio di minuti, ma quanto basta per ricordarvi le ultime dichiarazioni lasciate alla stampa da Martina Colombari, che è la celebre fidanzata del più ancora più celebre Alberto Tomba. Scusa, Colombari? Nomen omen, sì. Colombari, Tomba, è un'intervista. A chi altro si poteva fidanzare? È un'intervista a Panorama di un paio di settimane fa, ma non ha perso nulla della sua attualità, tutt'altro. L'essenza delle dichiarazioni, il messaggio che vogliono trasmettere è che la signorina in questione, che apprendiamo a 19 anni, è stata Miss Italia nel 91, fa la modella, non esclude un futuro di attrice e conduttrice di programmi televisivi, un po' diversa da quelle che ci sono oggi, dice, bontà sua, non vuole essere intervistata soltanto in quanto fidanzata del noto campione. Non è neanche sicura che finirà con lo sposarlo, figuriamoci, ha molti altri progetti. Faccio la modella, sfido per i costumi da bagno, per la biancheria intima, mi chiamano i giornali per le foto, ho fatto 12 anni di danza classica. Certo. E anche se alla domanda qual è il suo libro preferito risponde nessuno, non leggo, non mi piace leggere, non capisco quelli che mi dicono che devo leggere, ed esortata a tirar fuori almeno un titolo, si limita al Piccolo Principe, precisando di essere arrivata a pagina 20, nonostante questo non esclude degli interessi accademici. Voglio iscrivermi a scienze politiche per sapere poco ma di tutto. Ecco, io personalmente non conosco i piani di studio della facoltà di scienze politiche, non saprei dire se sono adeguati a questo progetto culturale, ma è certo che Martina Colombari o chi per lei ha le idee chiare. Se il suo problema è quello di distinguersi dal fidanzato di fronte all'opinione pubblica, l'idea di saper poco ma di tutto è ragionevolissima. E Tomba è il tipico esponente della scuola di pensiero opposta, no? È bravissimo nel suo campo, va impareggiabile nel ramo discese sui pendii innevati, e si trova in evidente imbarazzo quando si tratta di realizzare un altro obiettivo, come dimostrano i ripetuti fallimenti nel tentativo di conseguire un diploma, non ricordo bene se da ragioniere o da geometra. Anche Martina è stata bocciata alla maturità scientifica, sembra, ma poi ha fatto 2 anni in uno e ce l'ha fatta, il che con un patrimonio culturale limitato a 20 pagine di Saint-Exupéry non è un exploit da poco. Il fatto è che questa voluta dicotomia forse può spiegare anche la scelta di facoltà della nostra simpatica analfabeta. Tomba è uno specialista, è un tecnico puro. E qual è il contrario del tecnico? Lo sappiamo tutti, lo abbiamo appreso in questi giorni di crisi. Il contrario dei tecnici sono i politici. Quando Dini si deciderà a sgombrare il campo, un posto di ministro a Martina Colombari non glielo toglierà nessuno.